Siamo con Nicola Maccanico di Vision Distribution per parlare del film The Happy Prince di Rupert Everett in uscita in sala giovedì 12 aprile. Nicola, benvenuto. Ciao, buongiorno. Per chi ci ascolta, lo raccontiamo brevemente? Sì, Happy Prince, intanto devo dire è un film che Vision porta in sala con grande orgoglio, perché è un grande film internazionale, ma coprodotto da un'azienda italiana, dalla Palomar, di Gatto degli Sposti, che è anche socia di Vision, e quindi è un motivo di orgoglio perché non dobbiamo arrenderci ad un cinema che deve essere necessariamente con una qualità relativa. Il cinema può ricercare storie complesse, può andare nella storia degli uomini e in questa maniera diffondere dei messaggi importanti. Happy Prince è un po' tutto questo, perché Happy Prince, di Happy Prince per la precisione, è la storia degli ultimi anni di vita di Oscar Wilde, il genio irlandese che dopo una vita di incredibile nel momento in cui ha trascritto al mondo di allora la propria omosessualità e invece è caduto in disgrazia, è stato messo da parte ed ha dovuto subire una sorta di punizione sociale che in qualche maniera lo ha messo ai margini del mondo di allora, non certo ai margini della storia, perché il suo genio è decisamente sopravvissuto a lui. Però è una storia piena di anche contenuti contemporanei, perché poi il tema della gestione della diversità, della paura della diversità, è un tema che si è evoluto, in quanti luoghi è stato anche superato, ma è parte dell'uomo. Quindi la forza di Happy Prince, secondo me, è che racconta una storia importante, vera, di molto tempo fa, ma che al tempo stesso può essere facilmente contestualizzata nel mondo di oggi, perché in fondo poi alcuni problemi fanno parte degli esseri umani e dobbiamo combatterli. Nicola, su quali aspetti della personalità di Oscar Wilde si è soffermato e ha puntato Rupert Everett? Ma intanto va detto che Everett è l'opera prima di Rupert Everett, Sì. un film nel quale mi dimostra che è arrivato dalla regia tardi, perché è veramente molto bravo. Ed Everett ha piena titolarità nel parlare di Wilde, secondo me sostanzialmente per due motivi fondamentali. Il primo è collegato alla persona di Wilde, proprio perché lui lo ha interpretato a teatro, quindi l'interpretazione di Everett e la regia è collegata a tutto un percorso di rapporto con Wilde e con le sue opere. Dall'altro punto di vista, perché alla fine non voglio dire che abbia qualcosa di autobiografico, ma per certo nel percorso artistico di Rupert Everett ci sono molti punti di contatto, perché è assolutamente evidente che lui, da sex symbol, nel momento in cui ha affermato, fatto il coming out e ha affermato la sua omosessualità, la sua carriera ha preso una direzione diversa. Quindi anche da questo punto di vista c'è una connessione emotiva di Everett con il personaggio di Wilde particolarmente forte. Gli aspetti su cui, per arrivare alla tua domanda, su cui lui si è principalmente soffermato sono quelli della verità. Lui ha detto ieri in conferenza stampa, e devo dire che è stata molto interessante perché è un uomo di grande qualità e di grande cultura, è che in fondo Wilde al cinema non solo è sempre stato trattato un po' come un'icona, quindi è stato sempre rappresentato in una logica appunto quasi vista da lontano, in una logica di persecuzione. Lui invece ha voluto lavorare sull'aspetto umano di Wilde, sulle sue contraddizioni e anche sulle sue fragilità, che inevitabilmente, una volta caduto in disgrazia, negli ultimi anni della sua vita sono state ancora più evidenti. E tutto questo rende il film incredibilmente emozionante, perché c'è proprio un percorso, un cupio di solchi che però al tempo stesso viene in qualche maniera combattuto dallo stesso Wilde, ma anche dai suoi amici di magistrato che cercano di interagire con lui, la ex moglie, il suo amico interpretato da Colin Firth. Insomma, devo dire, è un film che parla del percorso di Wilde, ma parla anche molto di rapporti umani. Ecco, oltre a questo aspetto emozionale, Nicola, quali sono a tuo avviso i punti di forza di questo lavoro? Secondo me i punti di forza di questo lavoro sono intanto Io metterei innanzitutto l'attenzione e la cura con cui è stato trattato da un punto di vista storico il film. Quindi i particolari, i costumi, le realizzazioni dell'epoca, cioè, ci si cala completamente in quell'epoca. C'è poi un modello di regia molto interessante perché alla fine è sempre sul personaggio, quindi molto spesso vediamo Wilde di spalle. Quindi il modello di realizzazione del film ha un ritmo contemporaneo, quindi seppur ci cala in un'altra epoca storica, e al tempo stesso però ha un ritmo incalzante e ci fa un po' vedere il mondo attraverso gli occhi di Wilde. Un altro punto di forza secondo me è Napoli, perché a un certo punto il film racconta una vacanza di Wilde a Napoli e la bellezza con la città, la bellezza dalla natura intorno a Napoli emerge fortissimamente, per noi come sempre in questi casi, perché no, è motivo di orgoglio e capiamo perché poi c'è così tanta gente che vuole venire a vedere il nostro paese oggi, ma c'era già altro. Nicola, ci racconti anche un po' dell'esperienza Vision Distribution? Sai, Vision sta per concludere, mettiamolo in questi termini, la sua prima stagione piena, perché noi siamo nati alla fine del 2016, ma in realtà abbiamo cominciato ad operare da agosto del 2017 e siamo molto soddisfatti. Abbiamo portato in sala film diversi, siamo già riusciti ad ottenere importanti successi come Un gatto in tangenziale, Sono tornato, abbiamo fatto esordire 5 registi con delle opere prime, tutte quante che hanno trovato un pubblico interessante. Stiamo cominciando a lavorare anche su un prodotto di qualità internazionale, come Happy Films. Abbiamo 2 film diversi che stanno per uscire ancora, cioè Il Tuttofare, l'opera prima di Valerio Attanasio, la nostra quinta opera prima con Sergio Castellitto, e poi Frank Matano nel suo esordio da protagonista al cinema in un film di Matteo Martinez che uscirà il 10 maggio. Stiamo costruendo il futuro molto velocemente, abbiamo annunciato la settimana scorsa il nostro prossimo film delle feste, che è di Giovanni Veronesi, I Moschettieri del Re, con un cast veramente particolare, per Francesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, tra gli altri, oltre a Margherita Puy e Matilde Giolì. E quindi, insomma, crediamo fortemente che per far crescere, per sviluppare il cinema italiano in sala c'è del lavoro da fare, però abbiamo le nostre corde, la strategia giusta, che è quella di cominciare a lavorare i progetti fin da subito. Un'interlocuzione anticipata con il mondo della produzione e poi cercare di lavorare su 2 fronti: grandi progetti, larghi, interessanti per il pubblico, in grado di diventare eventi, e poi cercare di costruire nuovi talenti attraverso progetti più piccoli, ma che comunque devono avere un'anima nella scrittura e nel posizionamento sul mercato. Tornando a Happy Prince, che uscita sarà? Non ho capito, scusami. Tornando al film, che tipo di uscita sarà? Quante sale? Noi avremo 170 schermi. La strategia è molto semplice. Noi abbiamo un'uscita di grandissimo valore nel circuito di qualità, quindi sono molto grato agli esercenti che ringrazio, che hanno dato molta fiducia al nostro. E al tempo stesso, però, nel primo weekend cerchiamo di andare anche un po' in profondità con alcuni multiplex, andando a cercare di trovare anche un pubblico più popolare. Quindi è un film di qualità, ma che ha ambizioni che vanno oltre la stretta qualità, anche per tutte le cose che ci siamo detti questa mattina. Bene, allora ricordiamo l'uscita del film di Happy Prince di Rupert Everett in sala a partire da giovedì 12 aprile. Un saluto e un ringraziamento a Nicola Maccanico di Vision Distribution. Nicola, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao.